Nel pieno del post-alluvione, con il tema del consumo di suolo che ancora solleva critiche, il Resto del Carlino quest'oggi ospita l'intervista a Stefano Susani, che è l'amministratore delegato di Tecnè, società che ha realizzato il progetto del passante di mezzo. E in questa intervista si sostiene che l'allargamento dell'autostrada addirittura ridurrà l'impatto delle grandi quantità di pioggia sul territorio. Ne parliamo con Wuming 2, che su JAP insomma, sta seguendo insieme ai colleghi tutta la vicenda legata all'alluvione. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno, eccomi. Allora, dobbiamo immaginarci un passante anti-alluvione? Beh, così come dobbiamo immaginarci un passante green di nuova generazione, opera simbolo della transizione ecologica. Insomma, sono tutte definizioni che cercano di coprire in qualche modo i danni all'ambiente e alla salute dei cittadini che l'allargamento della tangenziale della 14 comporteranno. Oggi sì, tocchiamo un livello ulteriore, perché evidentemente la regione, il comune, Autostrade per l'Italia si sentono incalzati dalle critiche che in questi giorni a causa dell'alluvione sono state fatte al consumo di suolo in regione, e quindi sapendo che il passante comunque il suolo lo consuma, cercano di correre ai ripari con un po' di notizie sparse, ecco. Secondo appunto questo ingegnere Susani, come dire, il passante addirittura pulirà le acque dalle sostanze oleose e avrà una portata, diciamo, di scarico paragonabile a quella del suolo vergine. Quindi qui l'operazione è dire che il consumo di suolo o il suolo vergine sono uguali rispetto a poi ai danni creati. Sì, addirittura a un certo punto arriva ad affermare che l'ambiente risulterà inalterato, che sinceramente mi pare una cosa abbastanza incredibile. Ma l'intervista si squalifica anche per alcune affermazioni, diciamo, esterne rispetto alla questione tecnica delle acque, della loro manutenzione, del loro flusso. A un certo punto, per esempio, Susani dice: non a caso l'Unione Europea ci ha attribuito la certificazione Envision. Ora, questa certificazione non è affatto rilasciata dall'Unione Europea. Envision è una certificazione di sedicente sostenibilità delle infrastrutture che viene rilasciata da un organismo privato, ICMQ, e questo organismo ha come soci diverse associazioni tipo la Società Tecnico-Economica del Cemento, l'Associazione Italiana Produttori di Bitume, cioè tutta una serie di associazioni di categoria legate al settore delle costruzioni, nonché Enel, nonché Rete Ferroviaria Italiana, quindi diciamo che è un organismo di certificazione sulla cui indipendenza qualche dubbio può venire, ma sicuramente non è l'Unione Europea. Ecco, questo è il livello dell'intervista. Oppure in un altro punto dice che le opere verdi che verranno garantite dal passante sono 130 ettari. Allora, questa superficie cambia tutte le volte che il comune, Autostrade o la regione affrontano il problema, no? Il che secondo me dimostra che i numeri vengono dati così, un tanto al chilo, giusto per coprire con un po' di verde vicende più importanti, insomma. No, ultimamente, proprio alla fine di aprile, Fabio Visintin, che è il responsabile unico del progetto per il passante, è andato in udienza conoscitiva al Consiglio Comunale di Bologna e ha dichiarato che saranno 180 ettari di opere verdi. Quindi c'è una forbice dichiarata dagli stessi amministratori delegati o tecnici che fanno riferimento ad Autostrade, 50 ettari, che insomma non sono poca roba, è un terzo delle opere promesse, è pari a due volte i Giardini Margherita, insomma, no? Quindi non è poca roba. Tra l'altro, chiunque insomma va a guardare le carte del progetto definitivo, e il progetto esecutivo ancora non c'è, ma insomma quelle del progetto definitivo, vede molto bene che queste opere verdi promesse in realtà al 97% dei casi vanno a insistere su superfici che sono già verdi, cioè sono già campi coltivati, sono già prati, in alcuni casi sono già addirittura giardini dove verranno aggiunte delle panchine, degli alberelli, e in effetti su questo Susani a un certo punto, in mezzo a tutto quanto, la verità la dice, cioè dice: verranno deimpermeabilizzate o il terreno verrà vivificato, adesso non mi ricordo esattamente il termine che usa, comunque 6 ettari di superficie. superficie. Quindi in realtà l'asfalto verrà fisicamente tolto e verranno restituito come terreno non più impermeabile 6 ettari. Il passante ne copre 20 di asfalto, ne impatta 300 con i cantieri e insomma alla fine tra tutte queste opere verdi, tutta questo benessere green, poi l'asfalto verrà tolto su 6 ettari di superficie, quindi una misura minuscola in realtà, no? Ma tutto questo rende il passante antialluvione e la cosa è abbastanza buffa. Prendendo spunto anche da altre analisi su quello che è accaduto in Emilia-Romagna che avete prodotto nei giorni scorsi, voi vi siete concentrati anche molto sul tema di come la gestione ingegneristica o comunque artificiale del territorio non abbia fatto un gran bene, anche la gestione appunto della pulitura dei fiumi, eccetera. No, certo, ormai diciamo tanti tecnici, geologi, tecnici che si intendono di manutenzione fluviale hanno sottolineato come un certo modo di concepire i fiumi affidandoli soltanto appunto a una gestione di tipo ingegneristico è alla base di quello che è accaduto, nel senso che non è stato dato sufficiente spazio ai fiumi, non sono stati considerati dei sistemi naturali, degli ecosistemi naturali, ma sono stati considerati sostanzialmente dei canali, quindi sono stati in molti casi canalizzati, rettificati, tolte anse, perché queste anse tolgono superficie edificabile nel territorio, sono stati cementati gli argini, oppure sono stati ripuliti a zero argini dove la presenza di vegetazione doveva essere invece gestita in maniera più oculata, tagliando alcune cose, lasciandone altre. E questo della manutenzione è un tema centrale anche per la questione del passante. Oggi Susani, sempre nell'intervista, dice che ci saranno tutta una serie di interventi di manutenzione periodica che appunto faranno sì che vengano separate, depurate le acque, separate l'acqua dagli oli con cui si mescolano quando la pioggia insomma si riversa su un'infrastruttura. Io devo dire che quando sento parlare di manutenzione periodica da parte di Autostrade per l'Italia, ecco, mi viene la tosse e mi viene un brivido lungo la schiena, anche perché insomma in più occasioni noi abbiamo percorso i sentieri che corrono ai lati della tangenziale e abbiamo visto in che condizioni sono gli embrici, cioè le canalette di scorrimento per l'acqua costruite sulle scarpate, abbiamo visto cascate d'acqua scendere dai sottopassaggi e allagare in più punti il percorso, cioè abbiamo visto evidenti testimonianze del fatto che la manutenzione periodica non viene fatta o comunque viene fatta molto male dagli attuali gestori di tangenziale e A14, che sono poi gli stessi che costruiranno il passante, quindi ecco, questa garanzia mi lascia molto perplesso. Quindi insomma questa intervista la dobbiamo ascrivere al greenwashing? Ho l'impressione di sì. Io devo dire che quando mi è stata segnalata questa mattina sono collegato dal telefono per leggerla e in fondo c'era un avviso che diceva: questa intervista si può leggere, non è riservata agli abbonati, non è a pagamento, è uno dei pochi contenuti del nostro sito, del resto del Carlino, che vengono offerti in questo modo grazie alla pubblicità contenuta in essa. Io ho l'impressione che la pubblicità a cui si faceva riferimento è la pubblicità al passante, cioè che tutto sommato questa sia un'intervista che va scritta alla propaganda, ecco.